Matteo, capitolo primo. Genealogia di Gesù Cristo, figliuolo di Davide, figliuolo di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Amminadab, Amminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, e Jesse generò Davide il re. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie d'Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Uzia, Uzia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Menasse, Menasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconiah e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. E dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zerobabel, Zerobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazero, Eleazero generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni, e da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figliuolo di Davide, non temere di prender te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi». E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù.